Va bene. Adesso vi farò vedere perché è così importante oggi il lavoro su noi stessi. Perché le rivoluzioni del secolo scorso ci hanno mostrato dove vanno a finire. La rivoluzione russa dove è finita? La rivoluzione cinese dove è finita? La rivoluzione a Cambogia dove è finita? E Tiziano Terzani, che ha seguito molte di queste rivoluzioni, alla fine ha detto basta, mi arrendo. Dopo aver visto gli effetti delle rivoluzioni che sono stati questi. Prima c'era così e dopo così. Quindi era cambiato chi stava qui. Prima c'erano certi mascalzoni e dopo ce n'erano degli altri. E allora è il caso di massacrarci tra di noi per cambiare i mascalzoni? Quindi Tiziano Terzani ha cominciato a riflettere su questo. Prima di lui, Jung, prima di lui, Etty Illesum, grandissima mistica del Novecento, i quali tutti concordano nel dire non possiamo più permetterci di non andare a snidare i virus del pensiero che ormai ci abitano e che ci rendono disonesti e quindi violenti nei confronti, uno, di noi stessi. Perché disonesti? Perché anziché governarci bene, e il governo buono qual è? Il governo che genera armonia all'interno, un governo che lascia vivere al proprio interno dei continui conflitti, non è un buon governo. Basta. Quindi in primo luogo siamo disonesti come persone, come leader politici di noi stessi. E questo è un problema psicologico. Poi diventiamo disonesti nelle interazioni con i figli, con gli amici, con i partner. E lì vedremo, e questo spero di riuscire a fare, farvi vedere come molte relazioni d'amore si trasformano in relazioni di affari. Semplicemente la logica è quella di Wall Street. Fine. Solo che lì non ti trovi di fronte un banchiere e una popolazione inerme, ti trovi due banchieri che ognuno sa bene cosa fare. E quindi la trattativa è tra due affaristi. Vedere questo è molto importante perché se una via verso il bene esiste, essa passa attraverso la conoscenza profonda del male. Senza nessun problema, perché se scopriamo che c'è delle cose disoneste dentro di noi, se siamo onesti dovremmo brindare. Ah, ho scoperto! E perché ce ne possiamo liberare? Finché invece non le vediamo, ci dominano. Quindi il cammino che qui vi proporremo non è il cammino della New Age in cui degli incensi, dei foulard, degli oli essenziali e dei profumi. Adesso ti faccio vedere un profumino che se ti dai questo, guarda, ti cambia, poi ti metti questo colore. Ecco, quella è una dei tanti business che ci sono oggi. E questo che facciamo noi non può diventare un business perché richiede impegno, richiede lavoro. Perché farlo? Beh, perché è la cosa più importante della vita, semplicemente quello. Perché non c'è niente di più bello di questo, perché passare dal mondo degli affari al mondo delle relazioni armoniche dove può circolare l'amore è la più bella realizzazione umana che esista. Solo per quello. E oltre questo porta a generare una speranza nel futuro, perché se questo movimento si estende, beh, allora si possono generare imprese che non sono predatorie, ma imprese che generano valore aggiunto per chi? Per tutti. Per l'ambiente che viene risanato, per le persone che ci lavorano, per i clienti e così via. Vi farò vedere questi esempi, ci sono. Ecco. Adesso però parto dall'esempio da cui andare proprio via. Uno dei buchi neri della storia della seconda metà del Novecento è quello che stiamo per vedere. Questo filmato, è diciamo, è diretto da Naomi Klein, che come sapete è una esponente del movimento di critica alla globalizzazione così come è fatta adesso, che è una globalizzazione basata sulla forza e non sull'armonia. Sapete tutti che noi possiamo comprare degli oggetti a basso costo perché ci sono gli schiavi che ci lavorano e quindi ogni cosa che sembra un vantaggio viene pagata da qualcun altro. Allora, il lavoro nel futuro dovrà essere, il Buddha diceva questo, il lavoro che ci serve per vivere deve essere pulito. Cioè dobbiamo capire quali sono le conseguenze del nostro lavoro. Io lavorando qui, facendo questo, mi devo chiedere, serve a me, serve a voi, serve alle persone fuori? Se dico sì, serve a me, ma danneggio voi, non va bene. Serve a me e a voi, però danneggia quegli altri, non va bene. Va a me, noi e gli altri, tutto bene, ma distruggo la natura, non va bene. Quindi dobbiamo trovare un punto in cui non c'è più conflitto. E questo punto l'essere umano lo può trovare solo un patto, che dentro di lui scioglie i conflitti, perché finché c'è conflitto dentro vedrà sempre conflitti fuori, insolubili. Noi vediamo il mondo esterno così come siamo noi. Se vediamo il mondo dentro di noi, generiamo armonia, pian pianino intravediamo l'armonia fuori, almeno la possibilità. Più conflitti abbiamo, più vediamo il mondo esterno, sempre conflittuale e insolubile le cose. Adesso